11 e 15 spaccate, un rarissimo inizio puntuale per la trasmissione Maldestro, osservatorio antifascista di Radio Onda Rossa. Sono polvere, sono dolore, non ho più figli, non ho più amore, sono polvere la storia, il vento. Ultima puntata per questo mese di maggio 2009, sesto anno, sesta edizione di sesta stagione per questa trasmissione antifascista della radio. Di un odio lontano, di una condanna che non so capire, stringendo forte. Di cui ovviamente ricordiamo i riferimenti web www.ondarossa.info per quanto riguarda Radio Onda Rossa, maldestra.noblogs.org per quanto riguarda gli aggiornamenti sull'estrema destra italiana, sulla repressione, sul neoautoritarismo in questo paese. Che nei limiti dell'autogestione con cui viene aggiornato vi dà modo di poter riascoltare le trasmissioni passate degli ultimi, quantomeno degli ultimi mesi, oltre ad essere un buon archivio di dossier e altro materiale riguardante l'antifascismo e l'estrema destra in Italia e in Europa. Che bruci i numeri uccisi col fuoco, faranno del fuoco la mia via per scappare, ma quello che è stato, che ho visto, che ho perso, non posso lasciarlo con il corpo nel fuoco. Voglio che viva questo dolore infinito, voglio che in cui vive non sia mai cancellato. Senza memoria, la vostra, chi sono io? Perché io non sono nulla senza voi. E oggi, riprendendo un discorso iniziato varie settimane fa su quello che riguarda i sempre più stretti legami fra la politica del potere, dei palazzi in Italia e a Roma in particolare, e l'estrema destra neofascista, l'avevamo iniziato la settimana scorsa, l'avevamo continuato la settimana scorsa per quello che riguardava le vicinanze, le contiguità culturali tra Casa Pound e l'amministrazione Alemanno. Quest'oggi, data la tornata elettorale ormai prossima, ci dedicheremo a quello che è un po' lo sport preferito dei neofascisti, cioè la corsa alla legittimazione e al denaro dei partiti della destra italiana. In particolare andremo a parlare questa volta di una faccenda che, se non subito, ci riguarderà sicuramente fra qualche mese, quando verranno staccati gli assegni per questa campagna elettorale delle europee 2009, e assegni che andranno a finire nelle tasche di una vecchia conoscenza degli antifascisti romani, del noto Martina Varo, segretario, se non sbaglio, romano di Forza Nuova, uno dei protagonisti dell'aggressione a freddo alla Sapienza l'anno scorso, proprio di questi tempi, del maggio dell'anno scorso, di fronte alla città universitaria. Alien Tomb Raider, consume data, cut from the same cloth to produce Vader, the cult leader, the ultimate fighter champion, the beneficent. Andiamo a parlare con un ex operatore del settore dell'attacchinaggio politico elettorale che quest'anno può raccontarci quello che è andato cambiando nel mondo, appunto, degli appalti dell'attacchinaggio elettorale, e che vede alcuni personaggi della maggioranza del governo della città, della giunta comunale, delegare la propria propaganda elettorale appunto alla cooperativa legata, direttamente gestita da Martina Varo e da altri esponenti dell'ambiente Forza Novista di Roma. E gli lasciamo la parola per raccontarci quei tratti di un'inchiesta piuttosto interessante che sta già girando sul web e che ha senso iniziare a raccontare, perché appunto si tratta di palate di soldi e ovviamente anche di ha un carattere politico importante per quello che riguarda le vicinanze tra i pseudo rivoluzionari dell'estrema destra neofascista e in particolare il signor Antoniozzi, assessore alla casa del comune di Roma, nonché insomma dopo gli ultimi eventi che riguardano l'emergenza abitativa pesantemente repressa e insultata dallo stesso Antoniozzi e dai carabinieri romani, in qualche maniera insomma uno dei personaggi sicuramente meno difendibili di questa giunta. Comunque, lasciandogli la parola, andiamo avanti con questo discorso. Sì, buongiorno a tutti. Sì, diciamo che sono un ex attacchino e grazie al fatto appunto di essere un ex attacchino insomma conosco bene il mondo appunto dell'attacchinaggio, il mondo che nelle campagne elettorali insomma invade le strade di Roma con i manifesti elettorali appunto, e grazie al fatto di aver lavorato nel settore conosco molto bene diversi attacchini, nonché le società e le cooperative che gestiscono gli appalti dell'attacchinaggio per i partiti, e grazie a queste conoscenze insomma, domandando un po' in giro, soprattutto a seguito di diverse aggressioni che sono avvenute ai danni degli attacchini di alcuni attacchini del PD, del PDL eccetera, e siamo venuti a sapere insomma tramite questo lavoro di indagine e delle notizie a dir poco allarmanti, diciamo così, e cioè sostanzialmente il fatto che la stragrande maggioranza, circa il 90% di tutta la campagna elettorale del PDL a Roma, e per quanto riguarda i manifesti elettorali, è stata appaltata alla cooperativa del segretario romano di Forza Nuova Martina Varo, personaggio già noto diciamo ai compagni e insomma alle vicende politiche, non ultima quella avvenuta alla Sapienza circa un anno fa con gli scontri in via De Lollis. E insomma il fatto veramente eccezionale è che un personaggio come Martina Varo è riuscito a rubare il lavoro a delle società storicamente del settore, non faccio i nomi ma comunque chi conosce un po' il mondo dell'attacchinaggio sa bene quali interessi e quali società siano storicamente radicate in questo mondo, che ad ogni campagna elettorale, quindi ogni anno, visto che campagne elettorali si succedono di anno in anno in vista delle varie elezioni, delle varie tornate elettorali, muove un giro di soldi di svariati milioni di euro. Ora, Martina Varo è riuscita a accaparrarsi tutta la campagna del PDL, soprattutto i candidati di Pallone, Scurria, Buontempo, più la campagna elettorale di Forza Nuova, della Fiamma, del Movimento per le Autonomie di Lombardo e quindi di tutta l'area che compone il PDL, AN e Forza Italia. E quindi, facendo un po', diciamo, un po' di calcoli, siamo venuti a sapere che si è accaparrato all'incirca 2 milioni di manifesti. Tanti sono i manifesti che il PDL stampa solamente per la campagna elettorale di Roma, che non è uguali diciamo nel resto d'Italia, ma probabilmente nel resto d'Europa, visto che Roma è la capitale insomma della politica, quindi i palazzi del potere eccetera, e quindi in città vengono stampati milioni e milioni di manifesti, e la cifra stampata dal PDL è di circa 2 milioni. Ora, sapendo che Martina Varo ha preso questi manifesti, questo appalto per attaccare i manifesti a 31 centesimi a manifesto, e facendo un poco diciamo i conti della serva per così dire, notiamo come... Scusa, spieghiamo sì. Questa cosa, perché effettivamente è uno degli aspetti più controversi di questa faccenda, è proprio il costo poi della campagna per quanto riguarda il costo dei manifesti e poi ci arriveremo dopo il costo della manodopera. Questo prezzo di 31 centesimi sì. comunque non è proprio ordinario da quello che diciamo che il prezzo varia dai 30 ai 35 ai 40 centesimi a manifesto, diciamo, a seconda di chi fa l'offerta migliore. E Martina Mara è riuscito a prendere questi manifesti a 31 centesimi, che è un po' più bassa del normale, ma comunque rientra nella norma. Infatti anche qui non si capisce come, da cui sorgono insomma domande abbastanza evidenti, come si è riuscita a rubare il lavoro a squadre di attacchinaggio storicamente affermate, insomma, da anni e anni. Quindi dicevamo, no? Facendo i conti, scopriamo che la cooperativa del segretario romano di Forza Nuova dovrebbe intascare in questa campagna elettorale all'incirca 620.000 euro lordi. Ora, come gestisce l'attacchinaggio nella città questa cooperativa? La cooperativa ha stipendiate 36 squadre, composte da due attacchini a squadra, più 4 o 5 capizona che in maniera non propriamente democratica cercano di stabilire l'ordine, diciamo così, dell'attacchinaggio. Queste due squadre, che Martina Varo paga 120 euro al giorno per squadra, quindi 60 euro a persona, sono composte per la maggior parte di extracomunitari, di africani, sia magrebini che senegalesi del Centrafrica e anche e soprattutto peruviani. Quindi insomma anche qui la politica xenofoba e razzista delle varie formazioni neofasciste poi viene smentita sul campo, diciamo. E quando c'è da guadagnare, insomma, sfruttare gli immigrati fa sempre comodo. Quindi insomma il discorso qual è? Anche al netto della spesa di tutte queste 36 squadre più dei capizona e tenendoci in eccesso e quindi per un'uscita di massimo 200.000 euro, notiamo come Martina Varo in questa campagna elettorale, sia lui personalmente che Forza Nuova, intascherà più di 400.000 euro e netti, e quindi che andranno direttamente nelle sue tasche. Questo insomma apre delle questioni assolutamente scioccanti e soprattutto delle domande che sorgono assolutamente spontanee, come appunto come ha fatto un esponente di Forza Nuova, quindi un partito non rappresentato in Parlamento, antidemocratico, teoricamente da mettere anche fuori legge, insomma, in base a norme democratiche dello Stato, ad essere riuscita ad accaparrarsi tutta la campagna elettorale del PDL. Questa è una delle tante domande che dovremmo porci. Perché un noto neofascista pluricondannato per atteggiamenti razzisti e squadristi tiene al soldo decine e decine di squadre di extracomunitari che girano per Roma a attacchinare i suoi manifesti? E niente, queste sono le prime considerazioni che mi vengono da fare. Sì, ma altre ne facciamo noi, nel senso, intanto anche il personaggio, diciamo, che ha aperto questa, che ha dato il via a questo appalto, possiamo ben definire milionario in termini di lire per quanto riguarda la cooperativa legata a Martina Varo, Antoniozzi, come dicevamo prima. Antoniozzi, tra l'altro, tutt'altro è tranne che un personaggio diciamo vicino a qualsivoglia istanza sociale della città. Era il rappresentante dei peggiori interessi speculativi e dei peggiori atteggiamenti infamanti nei confronti dei movimenti sociali da parte della giunta Alemanno. Gli attivisti e gli ascoltatori della radio ricorderanno appena una settimana fa il suo atteggiamento di risposta alla campagna per il blocco degli sfratti in piazza del Campidoglio. I cittadini a rischio sfratto erano stati accolti dalle sue parole al megafono come praticamente come strumentalizzati da parte dei movimenti lotta per la casa, a loro volta definiti ladri e banditi, quando direi che insomma nel PDL forse di ladri e banditi ce n'è a palate. Così anche di ladri e banditi direi a questo punto stante queste cose, anche in Forza Nuova, insomma, ce ne potremmo infilare. Forse è proprio su quello l'affinità. Un'altra delle questioni che metterei è proprio il fatto che qua non si tratta di appalti con gare ufficiali, da quanto ne sappiamo. Qua gli appalti arrivano appunto attraverso dei sondaggi, diciamo, di offerta, che arrivano anche in maniera abbastanza informale, che bisogna essere anche più o meno inseriti in un ambiente politico e culturale, o essere ovviamente affermati come aziende operanti nel settore da anni. Qua stiamo parlando di una ditta molto giovane, una ditta che, anzi, forse questa è la prima volta che opera su un piano così ampio. E ci chiediamo come sia arrivata così, diciamo, a coprire un così alto numero di manifesti. Stante pure il fatto che a quel punto ci chiediamo come verranno reinvestiti, così come avevamo fatto più o meno lo stesso ragionamento intorno ai finanziamenti e ai rimborsi elettorali che Casa Pound aveva sicuramente ottenuto, quando ci vengono a proporre movimenti o organizzazioni popolari dal basso sulle forze dei militanti, ovvio che tutto questo cade nel momento in cui stiamo parlando di organizzazioni che ricevono dai loro padrini e fratelli maggiori presenti in Parlamento, a questo punto, a ogni scadenza elettorale, una bella cifra di denaro. Tra l'altro, questa volta appunto stiamo parlando di una scadenza elettorale che li riguarda molto da vicino, perché il segretario Nazionale Forza Nuova, Roberto Fiore, ha raccolto l'eredità di Alessandra Mussolini come europarlamentare, quindi sicuramente un investimento che va ben oltre quello poi economico e speculativo che viene fatto in questo momento intorno agli attacchini al nero che lavorano per conto di Martina Avaro. Non so se vuoi aggiungere qualcos'altro. Sì, fra le altre cose diciamo che anche più prosaicamente Martina Avaro è stato visto in una litigata fra attacchini nel quartiere Prati urlare a più riprese che dopo che tutti si sono fatti la villa, anche io voglio farmi la villa. Quindi non solo finanziamenti politici, ma migliaia e migliaia di euro anche nelle tasche personali di Martina Avaro. Ora, tutto questo, se rientrasse nelle logiche di mercato, fra chi fa il prezzo più o meno basso, diciamo, ci sarebbe anche poco da dire. Il problema è che, per chi conosce un po' il settore, le campagne elettorali a Roma muovono milioni di euro e centinaia e centinaia di lavoratori stagionali che ad ogni campagna elettorale, insomma, ci stipendiano poi un anno intero di vita, visto che il guadagno è abbastanza buono, e quindi interessi così solidi, forti, di chi per anni e anni ha gestito le campagne elettorali del centrodestra, in un anno sono stati scalzati da Martina Avaro. Ora, questo pone in luce quali sono i rapporti che esistono fra Forza Nuova e il PDL, quantomeno a Roma, per non parlare del livello nazionale. Sembra inoltre che il tramite fra Martina Avaro e il PDL sia stato proprio De Lillo, candidato prima di Forza Italia, adesso il PDL, che sia stato il tramite per consegnare i manifesti elettorali alla cooperativa di Forza Nuova. E quindi questo è un altro tassello, diciamo, del discorso più in generale dei rapporti che, prima di essere economici e, diciamo così, di mercato e di lavoro, sono rapporti politici assolutamente stretti, visto che appunto, come ricordava prima il compagno, non ci sono. Raramente ci sono contratti evidenti e formalizzati e che si svolgono su basi d'asta, su contrattazioni, quanto invece vengono dati per rapporti personali e politici a chi, insomma, a soggetti di fiducia, diciamo così. Io direi che su questo punto, insomma, possiamo, ovviamente, non so se c'è altro da aggiungere, però possiamo anche, diciamo, lasciarci, sapendo che noi a questo punto, da questo punto in poi, dovremo seguire con un'attenzione che va oltre quella poi delle alleanze, delle vicinanze. Qua inizia a parlarsi di qualcosa che vale più poi di quello di quel 2, forse 3% che andranno a prendere i neonazisti alle prossime tornate elettorali. Ma qua bisognerà iniziare a preoccuparsi forse di quei 300-400 mila euro che entreranno nelle loro tasche, che ovviamente rappresentano per un un'organizzazione che abbiamo più volte definito comunque forse più paramilitare che organizzazione politica, un dato assolutamente preoccupante, stante anche appunto il clima che già da tempo versa nella città di Roma, a partire da quelli che sono poi i territori dove Forza Nuova fa più maggiormente intervento, le periferie est come Torbella Monaca, come anche le campagne specificatamente xenofobe e contro qualsivoglia tipo di immigrazione, che appunto questi finti ribelli portano avanti ormai da un bel po' di tempo nella città. Non so se abbiamo da aggiungere un'altra cosa, sempre proprio una parentesi, ovviamente sicuramente diciamo parliamo di tutt'altro, però sempre con il nostro ospite vorremmo anche ovviamente da mandare un po' anche la nostra solidarietà a un'altra storia di questa città, riguardante sempre gli attacchini, riguardante sempre il mondo degli attacchini elettorali, un lavoro stagionale, un lavoro che ovviamente non vogliamo far confondere con la campagna elettorale vera e propria. Si tratta di gente che lavora, che gente che quasi sempre ragazzi molto giovani che in questa maniera riescono anche a coprire con una discreta fatica, una bella di fatica concentrata in pochi giorni, riescono comunque a coprire quelle che sono le ordinarie spese della nostra vita precaria nella città di Roma, però questa volta sicuramente quest'anno un po' più complicata da altre faccende che invece purtroppo da un certo punto di vista ci riguardano più da vicino. Sì, no, in conclusione volevo solamente portare tutta la mia solidarietà ai lavoratori in lotta contro Rifondazione per i licenziamenti avvenuti quest'anno per quanto riguarda l'appalto della campagna elettorale e soprattutto per il mancato pagamento di ben due campagne elettorali che ha portato ad un contenzioso di circa 80.000 euro nei confronti del partito. E, per spiegare brevemente la vicenda, appunto, questa cooperativa che gestiva l'attacchinaggio di Rifondazione non è stata pagata e non vuole essere pagata a 2 anni di distanza dagli eventi e quindi si trova in una vertenza, diciamo, con un padrone un po' sui generis, uguale appunto al partito di Rifondazione Comunista, e quindi da ex attacchino e da ex lavorante nel mondo dell'attacchinaggio esprimo a nome mio, a nome di anche tanti altri attacchini che quest'anno hanno deciso di non attacchinare proprio in virtù di questa avvertenza, tutta la solidarietà ai lavoratori in lotta. Ainsi donc, il reste plus rien à faire qu'à mettre ta clé sous la porte. Ces châteaux sombres et déserts rougissent nos illusions mortes. Puis tu serais l'inventaire de ces chambres abandonnées, au lit recouvert poussière, au parquet noir sans sécher. Sur les carreaux des fenêtres, on pourrait écrire à la craie, toute main fera disparaître des choses qu'on a cru vraies dans ce monde à la dérive. Pareil aux autres animaux, nous n'aurions d'autre choix pour vivre que dans la jungle ou dans le zoo. Dans la jungle ou dans le zoo. Dans la jungle ou dans le zoo. Dans la jungle ou dans le zoo. Ainsi donc, j'aurais plus rien à voir. Circuler donc, ainsi finirait notre histoire. Sous le poids des malédictions, faudrait faire un monde où on aura brasé les murs, coupé le dos. Ce signaux, pitoyable, rêve de goulag en ghetto. Tout serait que simulacre, toute espérance sans lendemain. Rien ne servirait de se battre pour un monde à visage humain. Faudrait brûler tous les livres, revenir des animaux, sans avoir d'autre choix pour vivre que dans la jungle ou dans le zoo. Dans la jungle ou dans le zoo. Dans la jungle ou dans le zoo. Dans la jungle ou dans le zoo. Ainsi donc, quand t'as faim la haine, quand te voit la cruauté d'un longuette incertaine, pour affirmer sa dignité, il nous faudrait tourner de la bataille surhumaine que depuis l'âge des cavernes, le mal lui-même s'est livré. Tirez pas sur le pianiste qui joue d'un seul doigt de la main. Vous avez déchiffré trop vite la musique d'être humain. Dans ce monde à la dérive, son chant demeure et dit tout haut qu'il y a d'autres choix pour vivre que dans la jungle ou dans le zoo. Dans la jungle ou dans le zoo. Dans la jungle ou dans le zoo. Dans la jungle ou dans le zoo. Dans la jungle ou dans le zoo. Dans la jungle ou dans le zoo. Dans la jungle dans le zoo. Dans le zoo. Dans le zoo. Dans le zoo. Dans le zoo. Dans le zoo. Dans le zoo. Dans le zoo. Dans le zoo. Dans le zoo. Dans le zoo. Dans le zoo. Dans le zoo. Dans le zoo. Dans le zoo. Dans le zoo. Dans le zoo. Dans le zoo. Dans le zoo. Dans le zoo. Dans le zoo. Dans le zoo. Dans le zoo. Dans le zoo. Dans le zoo. Dans le zoo. Dans le zoo. Dans le zoo. Dans le zoo. Dans le zoo. Dans le zoo. Dans le zoo. Dans le zoo. Dans le zoo. Dans le zoo. Dans le zoo. Dans le zoo. Dans le zoo. Dans le zoo. Dans le zoo. Dans le zoo. Dans le zoo. Dans le zoo. Dans le zoo. Dans le zoo. Dans le zoo. Dans le zoo. Dans le zoo. Dans le zoo. andiamo a sfumare Chad un po', e dice Winamp, per andare a introdurre la seconda parte di questa trasmissione in collegamento con una delle nostre voci più consuete, ovvero la nostra redazione del Nord-Est. Ci senti? Buongiorno a tutti. Buongiorno a te. Allora, noi con te in realtà abbiamo anche un sacco di carne sul fuoco, visto che per continuare con il filo rosso in qualche modo di questa trasmissione, ovvero una maldestra che si occupa un po' di elezioni, con te andiamo a guardare quanto avviene nel tuo territorio appunto del Nord-Est. E penso che ci sia abbastanza da dire, non soltanto andando a vedere un po', andando a spulciare un po' le candidature che come ogni anno ci regalano una sorta di vero e proprio circo Barnum, ma anche per andare a raccontare come si traduce nelle liste elettorali tutto quel fermento che c'è stato nell'ultimo anno legato alle ronde, e come tutto quei temi si vanno a rispecchiare appunto nelle liste elettorali sia di destra che di centrosinistra, se non sbaglio. E tra l'altro non solo, perché poi avremo anche, sempre se tu avrai tempo e voglia di farcelo, anche un po' di raccontare un po' quanto invece per questa campagna elettorale sta accadendo in quel di Venezia. Io non so da cosa vuoi cominciare. Per essere per una piccola introduzione, che questa tornata elettorale per quanto riguarda il Veneto è particolarmente importante, perché oltre ovviamente alle elezioni europee ci sono diverse elezioni amministrative, sia provinciali che comunali. Si parla della provincia di Verona, della provincia di Rovigo, della provincia di Venezia, della provincia di Padova, della stessa città di Padova e di molti altri comuni, quindi da questo punto di vista è una tornata elettorale particolarmente densa e particolarmente importante. E ovviamente la destra radicale, in un momento come questo della crisi economica, in cui si agitano anche spettri xenofobi particolarmente in questi territori, tenta di prendere la palla al balzo con uno sforzo anche di candidature, perché è di una campagna elettorale che è già cominciata mesi fa, che dal punto di vista magari delle elezioni europee schiera personaggi più noti e così anche tra virgolette pittoreschi, mentre invece dal punto di vista delle amministrative invece si va un po' più a pescare in quello che tu dicevi prima, il fenomeno che quello è stato dei comitati di quartiere delle ronde, di cui ne abbiamo parlato diverse volte, ma anche insomma a tentare di accaparrarsi dei posti con apparentamenti buoni rapporti con la PDL e possibili scenari anche di alleanze con non soltanto le compagini leghiste, che ovviamente in questi territori sono molto forti e che da sondaggi ormai abbastanza accreditati si confermeranno su dati poco inferiori alle politiche, quindi già un grosso, le ultime politiche, quindi già un grosso esploit, ma anche in tutto quel piccolo contesto di piccole leghe, di piccoli partiti alla destra della Lega, sempre di stampo razzista e così propagandisticamente federalista, che ci sono in Veneto. Allora, per dare subito la notizia un po' così simpatica che è stata di queste tornate, che riguarda principalmente la lista alle europee di Fiamma Tricolore, qui dal Nord-Est abbiamo detto diverse volte che Fiamma Tricolore qui per quanto riguarda il Triveneto non è stata indebolita. Infatti questa è una cosa, esatto, perché noi abbiamo parlato finora di Forza Nuova, eventualmente poi quello che sarebbe anche interessante è andare a vedere dove i fascisti duri e puri di Casa Pound Italia hanno infilato i loro candidati nelle liste, cioè come indipendenti nelle varie liste, mentre invece almeno per quanto riguarda Roma Fiamma Tricolore è di fatto una realtà morta. In realtà non è così in tutto il territorio italiano, nello specifico nella tua regione. Esattamente, cioè diciamo che quello che era stata l'operazione di entrismo tra il 2003 e il 2004 relativamente alla vecchia base autonoma, quindi con la compagine romana e la compagine veneta del Veneto Fronte Skinhead, diciamo in Veneto non si è dissolta, sono ancora tutti stabilmente all'interno di Fiamma Tricolore e sono i candidati e sono i dirigenti di Fiamma Tricolore di questa regione. Tanto è vero che per esempio nella circoscrizione nord-est per quanto riguarda le europee di Fiamma Tricolore appunto troviamo anche due personaggi come Paolo Motta e Emilio Giuliana, che sono un po' i capi bastone del Veneto Fronte Skinhead, nella zona del Trentino e in particolare di Paolo Motta per Bolzano ed Emilio Giuliana, che sono anche candidato sindaco per Fiamma Tricolore a Trento, e sono insomma personaggi di rilievo all'interno anche di contesti vicini a quelli che sono le varie articolazioni di Casa Pound Italia nel Veneto, come può essere per esempio questo luogo di ritrovo che è il Barotto a Bolzano, dove è un po' il feudo di questo Paolo Motta. Quindi da questo punto di vista non sono neanche candidature borderline, ma sono dei personaggi che non sono mai usciti dalla Fiamma Tricolore. Ma il dato simpatico di queste elezioni per quanto riguarda le europee Fiamma Tricolore è questo personaggio vicentino invece, tale Silvano Giometto. Allora, magari ovviamente è un assoluto sconosciuto per quanto riguarda un contesto come quello delle elezioni europee, ma in realtà si tratta di un personaggio a Vicenza molto noto, che è sempre stato un po' una sorta di capopopolo con una biografia veramente, veramente particolare, e che questa volta, pur nel suo estremo egocentrismo, ha provato la candidatura con Fiamma Tricolore. Lui è sempre stato esponente, lui è un ex pilota di aviazione, tanto è vero che c'è stata anche una piccola bagarre perché è un favore, ha creato la lista sia al Dalmolin per quanto riguarda la base americana a Vicenza, e ovviamente la Fiamma al tempo si era anche opposta, aveva provato anche a passare così prima di essere respinta a qualche corteo del no dal Molini invece, quindi c'è stato subito un po' di sconcerto nel vedere Silvano Giometto candidato per l'Europea per Fiamma Tricolore, ma è appunto un personaggio che si è sempre mosso sull'onda di una sorta di giustizialismo contro i privilegi politici dei politici, contro gli stipendi alti dei parlamentari, e che insomma fa un po' sorridere vederlo adesso all'interno della compagine di questa Fiamma Tricolore Veneto guidata da Veneto Franceschinet, ma è senz'altro solo un personaggio che tenta visibilità e che sta già dando diverse grane anche molto così simpatiche sui giornali a quello che è il partito di Romagnoli. E per quanto invece, quindi questa un po' è la nota di colore, esattamente. Gli scenari un po' più beceri sono invece quelli che si sono nelle elezioni, dicevo, locali, perché poi lì dove effettivamente Fiamma o con qualche apparentamento o la stessa Forza Nuova con qualche scamotage o anche alle volte facendosi campagna elettorale per la propria lista, ma sostenendo anche personaggi magari della Lega o di Alleanza Nazionale, può provare a ottenere se non qualche posto, ma qualche piccolo ruolo di potere o qualche piccola influenza. In particolare a Padova c'è stata un piccolo caso, perché sapete che insomma Padova, la Forza Nuova padovana è un po' quella che tiene le fila della Forza Nuova veneta, ed è alcuni suoi dirigenti nazionali come Paolo Caratossidis, che viene un po' definito il rampollo preferito di Roberto Fiore, e che è padovano e che è questa volta è candidato alla provincia. Insomma, Caratossidis hanno atteso per far uscire le loro liste, perché loro speravano che la PDL scegliesse un sindaco fra i più duri di Alleanza Nazionale, quindi Maurizio Saia, e addirittura se ne sono anche lamentati pubblicamente del fatto che invece si è scelto un altro candidato di Forza Italia molto più moderato, perché loro avrebbero addirittura non si sarebbero presentati alle elezioni comunali e provinciali se ci fosse stato Saia, ma avrebbero addirittura sostenuto Alleanza Nazionale, quindi l'hanno addirittura dichiarato insomma sui giornali, sui siti web. E invece, essendo caduta la scelta su qualcun altro, il PDL hanno presentato normalmente le loro liste un po' in ritardo, ma insomma l'hanno fatto. Quindi da questo punto di vista il giochetto è sempre quello di occhieggiare a qualcuno nella compagine berlusconiana, non c'è mai diciamo una contrapposizione così frontale, specie in territori in cui la sicurezza è un po', e la questione legata all'immigrazione sono un po' decisamente un tema caldo per le elezioni. Non c'è lista elettorale di sindaco di un paesino o di una città come Padova o della provincia di Verona o di Venezia dove non rientri una lista civica che si lega ai comitati per la sicurezza, alle ronde, o che proprio abbia la parola sicurezza nel proprio logo, insomma. Quindi è senz'altro un contesto in cui favorevole culturalmente alla destra radicale in questo senso, tanto è vero che, ripeto, nella città di Padova abbiamo i comitati rondisti di sinistra e i comitati rondisti di destra, a seconda se siano candidati a sostegno del sindaco di centrosinistra uscente Flavio Zanonato o del candidato della PDL. E in queste liste c'è, nonostante magari una lista sia con il centrosinistra, comunque si va a cercare in quelli che sono stati gli attivisti di questi comitati di quartiere, di cui moltissimi vengono per esempio al fronte della gioventù e magari oggi sono candidati con i socialisti o sono candidati in una lista civica, ma diciamo l'humus nel quale queste ronde hanno sempre pescato è rimasto quello della destra, da questo punto di vista. Sì, che tra l'altro questa è un'operazione non nuova, appunto, che si è anche vista svariati municipi romani anche durante la scorsa tornata elettorale, quella per il comune di Roma, quella di andare a cercare personaggi appunto dal passato tutt'altro che di sinistra, poi magari appunto sulla questione sicurezza che niente, era giusto per integrare sì. il tuo ragionamento. Sì, l'abbiamo detto diverse volte, poi ovviamente questo tesoro elettorale della sicurezza qui, che è abbastanza appannaggio anche poi, diciamo, nonostante questi piccoli tentativi del centrosinistra, della Lega in particolare, che è quella che stabilmente ha organizzato, insomma, e sostenuto anche politicamente la scelta della creazione istituzionalizzata delle ronde, insomma, è senz'altro una torta sulla quale abbiamo già visto molti hanno provato a buttarsi, e ovviamente non può che avere una ricaduta elettorale in questo senso, visto che insomma si andava verso questa tornata elettorale. Ma io per chiudere direi il caso elettorale più importante poi di questo periodo, anche perché è un po' l'evento che ci sarà questa settimana, sarà questo contestato corteo invece sempre per le elezioni provinciali della provincia di Venezia, in cui ci sarà questo corteo a Venezia. Venezia è candidato addirittura alla presidenza della provincia, pur essendo vicentino di origine, Piero Puschiavo, quindi il nome tutelare del Veneto Fronteschinede, dirigente regionale e nazionale di Fiamma Tricolore. Insomma, un corteo molto contestato perché il tragitto all'interno del comune di Venezia arriva a lambire il ghetto ebraico, che ovviamente è una decisa provocazione, insomma, a far sfilare Fiamma Tricolore e Veneto Fronteschinede. Tra l'altro una provocazione che ricorda, che ha un po' il sapore di quanto leggiamo di solito avvenire non in Italia ma in certi paesi dell'est, no? Nel senso che questa sì. Sembra proprio nel solco del nazismo est europeo in qualche modo. Sì, effettivamente è una grossa provocazione, oltretutto si tratta di un itinerario scelto appositamente, perché non è Venezia è già una città che ha una sua viabilità strana effettivamente, però non è l'itinerario classico dei cortei, è una scelta deliberata fare questo passaggio, anche perché, se dobbiamo dire la verità, l'azione di Fiamma Tricolore della zona di Venezia è sempre stata molto incentrata sulla città di Mestre più che su Venezia. E infatti quello, una delle domande, le due domande che poi io ti volevo fare nello specifico su questo appuntamento era, intanto, qual era, perché poi a me in realtà non risulta Venezia una città in cui ci sia un particolare intervento delle formazioni neonaziste, e poi appunto come la città si stava preparando anche a questo evento, la parte diciamo sana della città. Allora, rispondendo da subito, c'è stata direi anche una grossa mobilitazione anche dal punto di vista culturale, nel senso che ci sono stati degli ordini del giorno del Consiglio Comunale contro questa manifestazione, anche diversi partiti di sinistra, fra cui i Verdi, hanno presentato anche delle corpose documentazioni per chiedere l'annullamento di questa manifestazione, e la comunità ebraica ha detto che listerà tutte le finestre del ghetto al lutto al passaggio del corteo, ma purtroppo i margini per cui il corteo venga annullato sono scarsi, tanto è vero che si è sviluppato un coordinamento antifascista che cercherà di disturbare la manifestazione di Fiamma Tricolore, in questo senso composto da compagni, da realtà di movimento e dei centri sociali della zona. Per quanto riguarda poi la zona di Venezia, effettivamente Venezia è sempre stata un po' salva da questo tipo di attività. Diversamente è per Mestre, perché per esempio lì c'è stato un caso in cui la Lega e Fiamma Tricolore sono riuscite a creare un piccolo problema, ne avevamo parlato anche per Maldestra, per la costruzione di un campo Rom, anzi la ristrutturazione di un campo Rom nella zona di Favaro, che è vicino alla tangenziale di Mestre, dove effettivamente hanno avuto una presenza militante costante, con anche dei presidi che hanno bloccato l'ingresso del cantiere di ristrutturazione di questo campo, però assolutamente Venezia non è mai stata così al centro delle dinamiche della destra radicale nell'ultimo periodo, quindi si tratta appunto di una classica calata che Fiamma periodicamente ha provato in Veneto, in cui tenta di fare una grossa manifestazione anche usando come scudo il fatto che in campagna elettorale un partito che si presenta difficilmente gli può venire vietata l'autorizzazione completamente al corteo, possono esserci delle modifiche, delle cose, ma generalmente è abbastanza difficile farglielo vietare, e quindi insomma questo sarà un po' l'evento della settimana ed è la cosa un po' più triste anche in questa campagna elettorale, queste campagne elettorali venete che sono quasi un po' sonnacchiose per altri versi, però insomma questo evento di Venezia di sabato sarà un po' la cosa più rilevante. Va bene, senti, io non so se tu hai qualcosa da aggiungere, in realtà sei stato anche molto esauriente, e sicuramente continueremo a seguire questa cosa, quantomeno sabato sicuramente daremo notizia anche di quanto avverrà, e da questi microfoni, da questa trasmissione in qualche modo ritorneremo a parlarne. Tu non so se hai qualcos'altro da aggiungere? No, non ho nient'altro da aggiungere. Va bene, saluto a tutti. Allora ci aggiorniamo la prossima settimana, ciao. A presto, ciao. E si trattiene con i loro aguzzini, con un padrone che la farà franca. Comunque vada ancora una volta in una guerra dove non c'è giustizia, ed un morto è solo un'altra notizia. Un'altra notizia. Nessuna medaglia, no, eroi, senza nessuna medaglia, no, eroi, senza nessuna medaglia, no, eroi. Ogni mattina ormai andando verso la chiusura, una chiusura puntuale almeno quanto il nostro inizio questa volta, ricordiamo anche un po' di appuntamenti. Come avrete sentito anche da questi microfoni la scorsa settimana, sta per iniziare in quel di Bologna il Festival Sociale delle Culture Antifasciste, che avrà luogo dal 29 maggio al 2 giugno 2008. Tutte le informazioni per partecipare a questo festival, il cui programma è veramente densissimo e praticamente illeggibile per radio, visto che per leggere tutti gli appuntamenti servirebbe un'intera trasmissione, comunque tutto si può andare a guardare su internet a www.fest-antifa.net. E per saperne un po' di più, o quantomeno per avere anche un'idea di quello che sarà l'intervento anche della città di Roma, della rete antifascista metropolitana in questo festival, c'è un appuntamento da questi microfoni, da questa radio. Domani alle 11:30 ci sarà una trasmissione che andrà appunto a raccontare un po' di che cosa si parlerà. Pirates, yes they rob I, sold I to the merchant ships. Minutes after they took I from the bottomless pit. But my hand was made strong by the hand of the Almighty. E sulle note di Redemption Song, interpretata da Joe Strummer e di Mescaleros, andiamo verso la chiusura di questa trasmissione dal taglio decisamente elettorale, anche se in realtà la prossima trasmissione sarà ancora precedente alle elezioni, quindi forse non si esaurirà qua tutta questa discussione. Comunque l'appuntamento è come di consueto per martedì prossimo a 12:15 circa. E